Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Le rapine in casa sono aumentate del 25,8%, i furti del 17,3%. Sono entrati in azione intorno alle 3 di notte, si sono arrampicati lungo l'inferriata che congiunge i ballatoi del condominio e dopo aver forzato la porta vetro sono riusciti a entrare nell'appartamento. Riuscivano a entrare grazie a una grande abilità, alcuni serraturieri che facevano parte della banda praticamente riuscivano a fare i calchi delle chiavi e quindi tramite alcune attrezzature particolari e anche l'ausilio di alcuni dipendenti presso due rivendite ufficiali di serrature riuscivano a duplicare le chiavi. Quindi lo so che molto spesso vi ho intrattenuto sul problema della sicurezza dei propri dati informatici, sulla propria privacy digitale. So che questo è un problema che colpisce molte persone, ma non così profondamente, non così drammaticamente quanto potrebbe preoccuparci il problema che possano entrarci sconosciuti, malintenzionati dentro casa. Beh, questa mattina mi sono io stesso molto preoccupato guardando l'inchiesta che ha fatto sul giornale di oggi Stefano Vladovic, che ci parla, ci fa una pagina intera dove ci ricorda che in realtà in un momento in cui sembra che siamo molto preoccupati delle fughe di dati dei nostri profili Facebook o dalle nostre bacheche informatiche, dovremmo forse un pochino preoccuparci di una fitta, vastissima, capillare, molto organizzata rete di persone che stanno prendendo di mira le nostre case. Voi dite, ma cosa c'è da rubare a casa mia? Ben vengano, apro la porta, ormai non c'è più niente, hanno portato via tutto, non c'ho nulla di valore. Però non sottovalutate il fatto che comunque qualcuno possa entrarvi in casa, è sempre una vicenda spiacevole. Io da questa inchiesta vedo qualche dato, mi rendo conto che a Roma, ad esempio, è stata arrestata un'organizzazione che aveva ben 54 persone, arrestate fra il marzo del 2012 e luglio di quest'anno, che erano organizzatissimi, c'erano le persone che facevano il sopralluogo, osservavano i punti da scassinare, lasciavano dei segni convenzionali come lo zerbino posizionato in un certo modo, al momento dell'operazione bloccavano con lo scotch tutti gli spioncini dei vicini che non si fanno mai i fatti loro, e poi velocemente con strumenti di cui non ho mai sentito parlare, di cui oggi vi darò qualche contezza, come il grimaldello bulgaro oppure il grimaldello elettronico, cose nuovissime che sembra che possano scassinare ogni serratura, anche quelle più costose, anche quelle che avete appena installato. A Milano, ad esempio, per giustizia territoriale, nei primi 6 mesi dell'anno sono stati denunciati, perlomeno segnalati, 1900 colpi nelle case e 1240 nei mesi successivi. Quindi cominciamo a dare qualche segnalazione all'800240024 su qualche irruzione che c'è stata a casa vostra, di cui non vi spiegate la ragione, visto che avevate fatto di tutto per dotarvi delle serrature più avanzate tecnicamente. E adesso sono in piena sicurezza, chiaramente, perché ci stavo, ho cambiato anche la serratura, perché io c'avevo una serratura CISA. Quella a 4 mandate, e ogni mandata il chiavistello avanzava di 20 centimetri. Alla quarta mandata il chiavistello mandava a chiudere anche la porta del mio vicino, l'architetto, il quale diceva: ma che fa, mi chiude pure a me, adesso devo uscire. Allora ho chiamato subito il Fabbro Ferraio e ho fatto levare subito quella serratura e l'ho sostituita con una serratura. Magari fosse così, magari fossi semplice come ci dice appunto Brignano nel suo sketch, che ci sono serrature così impenetrabili che uno rimane chiuso dentro casa. No, sembra che la tecnologia si sia soprattutto spalmata attraverso una sorta di organizzazione che sembra più gestita da ingegneri che da semplici scassinatori, che hanno a disposizione strumentazioni così raffinate che le case diventano improvvisamente praticamente dei luoghi aperti a loro e alla loro possibile eruzione. Loro che fanno? Installano immediatamente un kit di montaggio, a secondo la grandezza del pezzo che c'è davanti alla porta, approfittano per infilarlo e spaccare il defender, che prendendolo con questo tubo lo riescono a spaccare. Quindi una volta che l'hanno spaccato, che cosa fanno? Con un cacciavite aprono e manomettono la serratura e riescono ad aprirla. La cosa più importante da fare è naturalmente inserire davanti alla porta, qualsiasi serratura essa sia, un antishock che ha un collare esterno senza viti, dove non è possibile poterci infilare l'eventuale attrezzo di scasso. per far sì che questo... Di questo abbiamo già lungamente parlato, anche se qualcuno mi scrive no, ancora serrature, no dai, vabbè, evidentemente non hai questo problema. Il famoso tubo che vedo esposto in tutte le vetrine dei venditori di serrature di sicurezza, il tubo che sembra ormai un accessorio un po' rozzo, un po' appartenente al passato, come i grimaldelli e le chiavi che mettono al fianco i ladri, quelli con la mascherina, quelli da iconografie passate. Ma cos'è oggi questa sorta di grimaldello bulgaro di cui si parla molto? Marco Ferrarini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, salve. Buongiorno. Marco Ferrarini è titolare della Ferrarini SRL di Parma, che tratta sistemi di sicurezza per la casa. Trovate anche il sito ferrarini.pr.it. Cominciamo a capire, ma il grimaldello bulgaro fa parte di una leggenda metropolitana o esiste veramente? Dove si acquista? Come è fatto? Come funziona? Allora, giusto per chiarirci, giusto perché avete fatto una serie di preamboli che meritano un commento, è chiaro che la serratura che si va a installare sulla porta fa una grandissima differenza sul risultato finale di quello che è la sicurezza globale della porta. I costruttori delle porte blindate normalmente certificano le porte secondo una normativa, che è la normativa riguardante l'antieffrazione, che però non prende minimamente in considerazione, o comunque in minima parte, la questione della serratura. Per chiarirci, la serratura è il punto di riferma della porta, che è la fase finale del blocco stesso della porta. La porta in sé ha una resistenza meccanica complessiva calcolata allo sfondamento, per cui viene certificata secondo le norme UNI, secondo appunto questa normativa classe 2, classe 3. Cioè io posso mettere una lastra d'acciaio 5. Di mezzo metro, però la serratura, se non è quella esatto. necessaria, non serve a nulla. Ecco. Esatto, io posso anche certificare una porta in classe 5 dove la serratura non è detto che poi dopo sia così sicura come poi è in realtà tutto il resto della porta. Quindi la sostanza è questa, il grimaldello bulgaro è una speciale chiave che è stata ideata e inventata per i serraturieri, non per la delinquenza. Cioè per voi che operate, per aprire. Esatto, esatto, è una chiave magica, diciamo così, che viene introdotta all'interno della toppa della chiave ed è la classica chiave, quella che si vede da 40 anni, detta doppia mappa, quella chiave con tanti dentini laterali, destra e sinistra. Che non usa più nessuno, a meno che non sia folle. Non usa più folle. Nessuno, dalle nostre parti o almeno, c'è ancora larga diffusione in Italia di questo tipo di serratura, ormai diciamo che è consigliabile sicuramente passare almeno al cilindro europeo antiduplicazione, dove si hanno tipi di chiavi che appunto bisogna affidarsi a un determinato serraturiere, a un determinato punto vendita per avere garanzie e quindi... Quelle con la schedina diciamo magnetica, per rifare la copia bisogna dare una specie di tesserina, esatto, del banco. È la tessera di proprietà che garantisce, fa da testimonianza della proprietà delle chiavi, quindi chi ha in mano la tessera è il proprietario delle chiavi. Quindi è il grimaldello bulgaro di cui si parla ampiamente funziona solamente sulle persone che hanno ancora le vecchie chiavi a doppia mappa, che naturalmente sono facilmente... Fermiamoci un secondo, Massimo. Massimo, buongiorno. Buongiorno, chiamo da Parma. Poco e tecnico, veloce e tecnico. In un anno e mezzo mi hanno rubato 4 volte, 2 volte al negozio e 2 volte in casa. Io non ho sistemi di sicurezza particolari, cose normali. Nel negozio per 2 volte si sono infilati dalla finestra basculante e mi hanno rubato il fondo cassa, 70 euro una volta, la seconda volta 90 euro. Però la seconda volta mi hanno sfasciato anche la vetrina per 1.500 euro. Le costa più la vetrina che l'incasso. Cioè. Le conviene l'incasso lasciarla aperta, scusi, le conviene lasciarla aperta. Anzi, il fondo cassa, lasciavo aperto la cassa, gli facevo vedere i soldi, così decidevano loro se entrare o meno, forse facevo prima. Ma perché lei non ha pensato mai di mettere delle chiavi, diciamo delle serrature più sicure? È inutile. Secondo me è inutile, questa è la mia opinione, perché mi hanno forzato un basculante, voglio dire, anche con gli antifurti entravano e mi rubavano quello che volevano. In casa però la cosa più bella, e poi finisco la quarta volta, eravamo alle 10 di sera in casa, guardavamo la televisione con mia moglie e mio figlio, sono entrati in camera da letto. Io stavo andando al bagno, ho visto quest'ombra, penso di morire, non sono riuscito ad intervenire, questo si è buttato dal balcone, ha fatto un volo di 4 metri e poi è passato camminando perché se correva dava nell'occhio. E mia moglie gli ha detto, sei uno stronzo, e questo si è girato, stai zitto te brutta stronzo. Mia moglie gli ha buttato un vaso di fiori, non l'ha colpito. Dopo un minuto era neanche arrivata la polizia, ha detto guarda, anche se l'avessimo preso non potevamo fargli niente, perché in 24 ore probabilmente... Comunque sua moglie è stata reattiva, ha tentato diciamo l'assassinio, sì, col vaso di fiori però non l'ha colpito. Dell'uomo ragno, beh quello è l'uomo ragno, salta 4 metri, si rialza e cammina. Si figuri, un vaso da fiori non gli fa assolutamente nulla. Roberto, cosa le è accaduto? Sì, chiamo la provincia di Varese. Sì. E anch'io il mese scorso, l'appartamento sopra mia sorella, si sono arrampicati come le scimmie dal canale e hanno forzato nel terrazzo la porta sul terrazzo, facendo un forellino, e dopo hanno aperto. Se vogliono entrare, entrano. Comunque sappiamo che sono bande di albanesi, perché dopo una settimana a noi hanno rubato un computer, una macchina fotografica, dei vestiti, e il computer aveva un programma che dopo una settimana abbiamo visto che è stato aperto in Albania. Ah, quindi lei ha una tracciabilità del software, ha capito, sì, che l'hanno mandato subito, sì, in Albania. Beh, questo è il percorso. Quelli che hanno arrestato a Roma non hanno terminato l'articolo, poi hanno anche una rete dedicata appunto allo smaltimento e al riciclaggio. Però Marco Ferrarini, invece, sì, questo grimaldello elettronico sembra molto più raffinato, colpisce anche le serrature, quelle che noi consideriamo sicurissime, quelle con la tesserina magnetica? Innanzitutto, grimaldelli elettronici ne esistono di tantissimi tipi, era la panoramica che volevo fare, era proprio questa. Esiste una serie di attrezzature specifiche studiate per i professionisti del settore serraturieri, possibilmente devono essere persone iscritte all'ERSI, che è appunto gli esperti riferimi di sicurezza italiani. Queste persone sono persone che hanno il diritto di avere questo tipo di attrezzatura per effettuare quelle che sono le aperture d'emergenza a casa delle persone. Ossia, qualsiasi riferma, qualsiasi serratura è violabile, non esiste la serratura inviolabile. Ma è anche giusto, quello, una persona sente male, rimane chiusa in casa, certo, come fai a entrare? Certo. Esiste il vecchio sistema sfondare tutto, come fanno i pompieri, o esiste il sistema delicato, quello dell'apriporta o del serraturiere, certificato, ripeto, persone adatte a fare questo mestiere, non delinquenti. Purtroppo, con l'avvento di internet, al giorno d'oggi la reperibilità di queste cose è andata un po' a farsi venerire. Lei mi dice una cosa molto importante che non avevamo capito, o non avevamo, mi sembra di aver letto, che le attrezzature specifiche per l'effrazione nelle nostre case in realtà provengono a un mercato clandestino delle attrezzature costruite per le persone che lecitamente fanno questo lavoro. È come un assassino fatto con una pistola rubata a un poliziotto, non è che esista un mercato specifico per i ladri, è che le attrezzature esistono per chi produce serrature, e poi per qualche motivo che cercheremo di capire tra un istante c'è una sorta di passaggio, di transumanza di questi apparecchi da chi dovrebbe proteggerci a chi invece vuole entrare in casa nostra. Melog, cronache meridiane. Riconosce le impronte digitali perché c'è un microchip all'interno che dialoga con un microchip all'esterno, e in questo dialogo ti riconosco e dice sì sì, è lui, fallo entrare, si apre la porta e tu entri, per dire. Però faccio così, tra tra, e entro. Madonna, tante volte sono costretto a dormire sul pianerottolo perché non mi riconosce. Io arrivo magari tardi, tra tra, non mi riconosce. Faccio così, non mi ricordo. La colpa è anche un po' mia, perché siccome a me piacciono molto i supplì e le crocchette di patate, con le dita unte d'olio non mi riconosce. Riconosce la pizzeria dove l'ho prese, ma a me non mi riconosce, che è strana sta cosa. È un po' il problema che avranno quelli con gli ultimi modelli di smartphone, che hanno il riconoscimento digitale per poterlo aprire, poterlo usare. Naturalmente stiamo giocando sulle battute di Brignano, il problema comunque c'è, ma noi questa mattina cerchiamo di dare perlomeno un'informazione un po' corretta. L'idea che questo grimaldello bulgaro sia stato inventato da delle spie e poi importato, che l'altro grimaldello elettronico faccia parte di raffinatissimi studi ingegneristici di una sorta di spectre di ladri di appartamento, ci sembra un pochino fantasiosa. Perlomeno mi sembra questo ci confermi Marco Ferrarini, ricordo, titolare della ditta Marco Ferrarini Porte Blindate di Parma. È così, quindi abbiamo capito che il passaggio è un altro: non esiste nessuna spia bulgara che ha inventato il sistema di sfondamento delle porte, semplicemente c'è un mercato clandestino delle attrezzature dedicate ai professionisti della sicurezza come lei. Allora, partiamo giusto per farle una panoramica molto semplice, da lontanissimo. Da quando c'è stata la necessità di chiudere una porta è nata la necessità della serratura. da quando è nata la necessità della serratura è nato qualcuno che ha pensato come aprirle, e da qui diciamo tutti gli strumenti di apertura che esistono al giorno d'oggi, ripeto, per gli specialisti del settore, per poter fare aperture cosiddette senza scasso, quindi le aperture dolci, le aperture delicate, per far risparmiare i soldi alle persone che sono loro clienti. Certo, poi alla fine, certo, sì. Certo, perché logicamente un conto è distruggere la porta blindata, entrare, sfondarla, e un conto è aprirla delicatamente ed eventualmente effettuare una piccola riparazione, diciamo senza distruggere completamente la porta. Questo è il lavoro dell'apriporta o il lavoro del serraturiere certificato ERSI, è quello che fanno normalmente, è tentare di aprire appunto la porta quando uno perde le chiavi con questa attrezzatura. Purtroppo con l'avvento di internet è andato in diffusione, ossia chiaramente qualcuno ha pensato bene di trarre guadagno dalla vendita di questi materiali che non si sa come finiscono poi in vendita su dei canali di siti internet extraeuropei. Ma dovrebbero essere protetti come un'arma praticamente, cioè dovrebbero avere un loro numero di matricola, sapere chi li tiene in mano, perché sono strumenti efficienti ma anche molto delicati, con quello in mano chiunque entra ovunque. Assolutamente sì, ossia entra ovunque in base alle capacità che ha, non è così facile utilizzarli, sembra dai video che fanno vedere su internet che sia una stupidata, ci sono alcuni strumenti che sono veramente semplici da usare, ma comunque ci vuole una certa manualità e ci vuole del tempo, questa gente ha tempo per imparare, basta che riesca a reperire gli strumenti ed ecco che soprattutto, ripeto, le serrature... È come nel film di Totò che insegnava a borseggiare i bambini, ci sarà qualche sì. Scuola di scassinatori probabilmente. Sì, a Reggio Emilia poco tempo fa hanno trovato un appartamento pieno di gente, in questo caso erano della Romania, con serrature posizionate sulle morse, e questi strumenti con questi grimaldelli i ragazzini imparavano a violare le serrature. La scuola radiolettera degli scassinatori. Fermiamoci un secondo. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Sì. Io chiamo da Piacenza. Beh, da me non sono entrati dolcemente, come diceva il signore, nel senso che casa mia da sulla strada c'ha una controporta fuori che presenta una persiana molto grande, e loro in tutta comodità hanno tirato via un paio di doghe dalla persiana e hanno poi aperto la porta. A quel punto io come antifurto ho lasciato la persiana rotta com'era, mettendo a posto la porta, però la persiana fuori fa vedere che sono passati quantomeno, ecco. Vabbè, lei lascia un sistema deterrente, però qua stiamo parlando di un problema molto più tecnico. Giorgio, vediamo Giorgio cosa c'è. Giorgio caduto, allora, Angelo, buongiorno. Sì, Angelo. Sì, buongiorno, io volevo portare la mia esperienza, così, che è un po' curiosa, insomma, purtroppo sono stato visitato dai ladri diverse volte, in un paio di occasioni li ho beccati, preciso, erano in tutte e due le occasioni erano italiani, della zona oltretutto. La prima volta l'ho beccato e prima che entrasse, e vabbè, insomma, l'ho trattato insomma alla maniera un po' antica. Cioè l'ha menato? La seconda, sì. Vabbè. La seconda volta, che è il fatto curioso, questo qua, insomma, mi sono accorto dell'effrazione, ho fatto un po' di indagine, così li ho trovati, erano una coppia di ragazzi del posto, uno aveva problemi di tossicodipendenza, anche in quel caso là sono stato abbastanza... All'antica anche in questo caso. All'antica in questo caso, ma il bello è che... Il bello in questo caso sì. Si può dire, insomma, un po' stimolato forse da questa situazione, si è reso conto che stava conducendo una vita... L'ha redento con l'antica maniera. Si è fatto tutto il suo percorso di comunità, adesso comunque lo vedo ancora. L'antifurto di Angelo è un cartello che fuori dalla sua porta, attenti padrone che mena. Vediamo con Ferrarini di chiudere la questione diciamo dei sistemi così tecnologici di effrazione. Ecco, dal vostro punto di vista, rappresenta un problema sicuramente immaginare che altre persone abbiano gli stessi strumenti che avete voi per aprire dolcemente le porte. Qual è la contromisura? Esiste una contromisura? Assolutamente sì, ossia la contromisura come al solito è restare aggiornati. Tutti i giorni questa gente fa qualcosa e noi tutti i giorni facciamo qualcosa per combattere, quindi è sempre il solito ragionamento. Restare aggiornati vuol dire affidarsi a un serraturiere specializzato, abituarsi all'idea di fare manutenzione ai serramenti in termini di farli controllare, farli verificare, far verificare che i materiali montati siano ancora attuali e che siano ancora ad elevatissimo standard di sicurezza, perché è chiaro che così come esiste la porta blindata da 500 euro che lei compra in qualsiasi, diciamo, punto vendita, esistono porte blindate serie con serrature serie e esistono aziende serie che pensano non solo al certificato che devono presentare a un potenziale cliente, ma alla vera sicurezza che poi deve dare il serramento blindato alla finestra o alla porta d'ingresso. Quindi la morale è che in realtà, se si vuole risparmiare, non è certo quella la maniera migliore per essere sicuri. Sicuri non si sarà mai, ma se si fa un investimento sulla sicurezza si ha un margine più ampio di tranquillità. Grazie, a domani.